Bombolino. Deve essere qualcosa di più forte. Sì, ma il Brufen è potente. È che è la cardiaspirina che non lo fa agire, non hai capito? Questo qui non fa contrasto con la cardiaspirina e quindi funziona. Ho capito. Non so, ci sono delle cose che non vanno bene, delle medicine che non fanno agire le altre, se le capisce. Infatti, io la cardiaspirina purtroppo la devo pigliare, fai forza. Vabbè, comunque adesso se è risolto con questa qua va bene. Ehi, basta che non mi venga, mi adesso avessi messo l'altra. Ogni 6 ore si deve prendere. Te ne prendi al giorno 2? Una me l'ho presa quando sono arrivato qua che non ne potevo più. Una me la pigliare sì. Ma se non c'è bisogno, se non c'è dolore non te ne prendere, io te ne prendi 50 al giorno. Solo se è dolore Natale. Ehi, vediamo, se adesso mi si sveglia. Se mi si sveglia il dolore me la piglio. Infatti. Ah, ma non ti si sveglia, quelle sicuramente sono più forti delle altre, capito? Sono più forti. Infatti. Lo Brufen, chi ce l'hanno, ma e poi anche col Brufen mi venivano lo stesso i dolori e già. No, non lo faceva agire la cardiaspirina. Cazzo vita mi la dottoressa sape, perché a me mi avevano detto a non pigliare antidolorifici con la cardiaspirina perché non li fa agire. E anche il mio dottore mi ha detto di non prendere con quelle fastidie che mi ha dato, di non prendere antidolorifici proprio se non ne può fare a meno, ma infatti certo. Ma dimmi tu, questo già funziona perché col Brufen mi si sarebbe già svegliato 1000 volte. E perché non ce la fa il Brufen? Anche quella che mi ha dato a me dall'ospedale, per i dolori mi ha dato queste pastiglie, sono favolose, te li fa passare, però poi finito l'effetto di tornare in dolore. Quello è normale. E non è normale perché io non mi vorrei più. Allora a me dove ho fatto una camera per mare, che il dottore mi ha detto quando c'ha dolori così ne prende 3 giorni di fila, vedrai che gli passa l'infiammazione. E si firemmo. E tu fai così come ti danno dito. E se c'è l'infiammazione bisogna vedere cos'è. Dolori che è un altro mondo. È brutto, è così, io ti capisco perché li ho passati e risolvo. Certo, non puoi dire, stamattina per un pochettino di strada che ho fatto, non hai visto in che condizioni ero? L'ho visto, sì, ma io non lo sapevo che si potesse girare, pensavo che poi portava fuori la strada, dai. Invece no, mi ha fatto tutto di loco. È un casino, quell'ospedale è un casino. Scalabinto, cazzo. Scalabiscala, è cazzo di casino. Isso, cazzo. È proprio un labirinto, no? Cazzo, certe cose non le trovi se non le usai. Devi domandare. Con la lingua in bocca si arriva anche a Roma, sai? Io stamattina mi sono io chiesto, però non mi racconto che ce l'avate. Ero già lì e non me ne racconto che ce l'avate, perché ho guardato, vedevo tutti gli altri, ho visto che eravate gli ultimi. Infatti, non era buona. Certo che non è una bella notizia quella che mi hanno dato oggi. Lo so, bisogna conviverci e basta. E fare come dicono loro e basta. Purtroppo, cazzo, ti sei abbonato che ha le operazioni, tu, Sì, cazzo, c'ho le catarate, cosa cazzo non c'ho? Boh, cazzo prima di ti dici che non agio. E poi alla fine diventiamo zombie. Si buoni le catarate, si buoni le lenti all'interno. Io si buoni, a me per dire, io sono uno zombie, c'è tutti e due gli occhi operati, caparà. Da voi va giù. Lo ginocchio che l'hanno tolto il ministro quando sono caduto. Dopo c'è tutte e due le gambe operate. Vabbè, e poi per non parlare del resto, se no che se mettiamo pizza a domani. Infatti, tocca fare l'elenco, ragazzi. Come sono arrivato, in che situazione mi trovo? Ma i tuoi fratelli non si stanno facendo vedere? I miei fratelli non lo sanno neanche che sono così, perché non gli ho fatto sapere niente, non voglio che lo sappia. Di Lazio, ma Di Maio vabbè, ma di Angelo mi sono meravigliato, che Angelo sembrava più in gamba. Sembrava. Cazzo, ti dicava solo quando dici via che cosa? A Ravino ogni cosa che mi domandava no. Non mi ha più chiamato. Perché intanto gli dico di no. Ma infatti. Ma questo è il braccetto, il tuo gatto, sì. Sì, e mi vedranno più limi. Vabbè, ma l'affitto te lo ritiro della casa. E già viene lui a portarmelo, io non ci vado. Ah, ecco, è meglio così. Così almeno sei tranquillo. No, giù di... Vabbè, parauri con nessuno, compreso. Quello lì che viene a portarmi l'affitto lo sa che sono così. Però gli ho detto non dirgli niente a quelli. Non gliele dice, no? Non si beve sa manca, quindi non gliele ha detto. Adesso la casa piccola ti è rimasta, quella più piccola, quella che la deve mettere a posto. Quella è messa a posto, a nuovo l'ha fatta, quello lì. Ah, se non è stata... E allora? Se no non ci potevi andare a vivere, no? Se uno che si arrangia c'è la giusta luce e te lo dico, dovevi mettere quelle zanzariere, non siamo mai saliti. E infatti a me mi interessa solo visto che mi date ogni mese, basta, finito. Infatti eppure sarebbe stato un bello che lì c'è fresco d'estate a prendersi un po' di aria buona perché in alto. Non mi interessa, ma vedi che si baci, meglio evitare. Beh, siamo andati d'accordo, fai bene. Fatto per sì. L'ultima volta per poco siamo arrivati alle mani. Sì, certo. Dopo ci vorrei in due, tu. Io mi bombi in tre. Cucina poco. E con visto che faccio in mano. Mi sono pulito di roccio, non so. Perché fucone. Primitivo, la clava. E a chi mara era clava? Nessun coppa a fronti. Vedrai ne basta tutti i macchini. Via. Vabbè. Pregati la salute di Natalia Fattini. Sì, infatti. A farmi la mia vita e basta, cosa devo mi sa fare, non mangio a farla con nessuno, poi va come ti so con bello, che va so con deboli. Sì, e poi le so, sì, via, ma arrivato una certa età qui, uno non è più come te prima, si pensa che come prima, anche l'altro giorno sono salito sulla scala, che dovevo pulirmi il filtro del condizionatore, perché me lo faccio io, lo pulisco, lo faccio e poi lo rimonto, non c'è mai nessuno. E gli ho fatto tenere la scala a Marco, perché mi sentivo instabile sulla scala, lo sai. E infatti, hai fatto bene. No, io cazzo, mi sono accorto che ho preso un sacco di cemento, di quelli piccoli. Cazzo! Fatto rubrimi carina già mai dormi da ridu. mi sono mancati anche, lo sai. L'equilibrio si perde, ora c'è tenta poi l'equilibrio, non è più lo stesso. E io per assicurare già che la farina gli dimanni, arriva a sicurare, fatti lo conto. Cazzo mi ammazzo, se non mi mantengo la ringhiera, la russa, me lo fatto male a vero, va. È successo anche a me dal dottore, perché il mio dottore, vabbè, adesso si è preso un appartamento che c'è di fronte, ma prima era in questo portone, si salivano le scale, c'era la ringhiera attaccata al muro, e io ero stato appena operato alla gamba. Mi sono attaccato alla ringhiera per tenermi, se la ringhiera era attaccata con dei tassini, che tra l'altro era rotta, come sono andato a tenermi, si riuscita in furaggio, poi non per l'equilibrio, se non c'era una signora che mi teneva da dietro, sarei caduta lì dietro. Figurati. Vai due a pillare, va. E vabbè, dai. Già passerà tutto quanto, dopo la tempesta viene anche il sole, no? E speriamo. Oi Billy! Brigido! Ehi, Biondo! Che su internet stanno cercando qua dei giurati, se ti interessa. E dove? Tu devi cliccare su... c'è... guardi giurate, devi cliccare su questa cosa e poi ti dicono dove ti devi scrivere, fare, non è, io non ci sarei tanto perché era tutto da iscriversi, da fare, mettere nome, cognome, eccetera, eccetera. Sì, ma io lo sai cos'è, già, non sono idoneo per quel tipo di lavoro, perché non lo so fare. Come non lo sai fare? Non l'hai già fatta la guardia giurata. No, non sono idoneo io. Guarda lì, riprendi. Ah, non ti piace più. E a quei parametri non gli piace più, no? E adesso lo facciamo entrare in macchina a lavorare a Cicomino. Che c'è per fare la guardia giurata alla stazione del banco? L'ho già fatto. Come faceva Mario Mao al banco di Sardegna? Io avevo l'ufficio dentro la banca. Quando aprivo che c'erano qualcuno che c'era scappone anche fotoletti che suonavano, dovevi controllare. Ho visto che anche all'ospedale ce ne sono parecchie, ma sono tutte quante portierate, sono, non hanno uno solo che ho visto armato. Mica la stanno cercando la Mondial Post, se ti interessa. Ecco, deve essere la Mondial Polli, non la Mondial Pollo. La Mondial Polli si chiama. Grazie mille, hanno fatto una rapina allucinante. E lì, anche se ti giravi, ti sparavano. Quindi lì hanno sparato altezza d'uomo. Hanno bisogno di vedere la polizia, fatti un po'. Sì, e li hanno anche bucati, non hanno retto al Kalashnikov. Quindi quelle corazze non servono a un cazzo. I giubbottenti proiettili, più poco, quelli che hanno. Allora, giubbottenti proiettili ti ripara due o tre colpi, dopo inizia a scaldare e iniziano tutti i denti i colpi. Che c'è, dimmi tu, si sparano con una cosa del genere, guai. Il Kalashnikov ci passa giubbottino quanto c'è. Ci ha passato il livello di corazzanti della macchina di carabinieri. Ci avevano addirittura le cartucce sovietiche. Vai tu, cosa cazzo vai con la 9x21? Contrarissi, nulla. Erano organizzati molto bene. Ne tanto schifo, ne hanno preso due, tutti i bauri. A chi se non la ciappano più? A chi sono professionisti? Bisogna vedere. Telecamere, tutte queste cose qua, se sono state visionate, magari fanno un puzzle e poi riescono a chiappare. E alla ciappi domani, a chi se. Quelli lì erano professionisti, non li trovi manco se ti ammazzi. Cosa cazzo? A bisogno sono andati in 20, cazzo. Tutti ai mabbi fino ai denti. Ehi, quello lì è gente che è stata già detto per questo. queste cose, magari si sono conosciuti in galera, sai, io lo facciamo un colpo quando usciamo, ma io e sono imboccati 10 milioni di euro e non li hanno presi manco tutti perché nel capo c'erano le pensioni e avvenivano i poco di dinagia che si chiedono pure azzurra nei biliardi. Io non capisco perché erano furi, cosa stavano facendo con Paolo. E allora? Sono stati, diciamo, professionisti, non posso dirlo, perché a sparare a testa d'uomo puoi anche ammazzare le persone, quindi non è professionismo. Il professionista deve fare il colpo senza uccidere a nessuno. Loro non hanno ucciso a nessuno, ma perché gli è andata così, perché se no, se avessero risposto al fuoco, sarebbe stato un casino. Poi, quelli non gliene fregava niente di ammazzare qualcuno. Sono andati qualcosa di ammazzare proprio se ti giravi. Si hanno sparato contro i carabinieri e la polizia. Hanno sparato, che cazzo. Quel parabrezza non ha resistito e l'ha bucato. Ma il proiettile non è entrato, si sono salvati, non si sono feriti pure sotto i carabinieri. Si sono salvati per miracolo, perché l'ha bucato il vetro, cosa no? Il parabrezza non ha retto all'impatto di quella roba lì. Perché lo stava spiegando questo, non so se qualche capo delle guardie giurate, stava spiegando che quei vetri B sono più spessi e resistono fino a un certo calibro, dopo un certo calibro non resistono più. Ci avevano le cartucce sovietiche, ci avevano, che cazzo, c'è una penetrazione paurosa, quindi cosa fai? Adesso il casino a contare quei soldi per dividersi. Vedi, quello cazzo è l'offia la situazione. Allora cazzo, saranno ancora contenti. Se compare che erano 10 macchine di trattare in banca, si ripone il letto, brrr. E infatti il casino è a contarli quei soldi adesso. E se li divideranno a mazzette, saranno già preparati a mazzette quei soldi lì, se li divido per dire 30 mazzette a te, 30 a me, 30 all'altro, si dividono le mazzette così. Che ne so, io di cui sono ancora contenti e bevendo champagne. Solo che non so se sono, se le matricole di quei soldi lì sono state, come si dice, memorizzate da qualche parte. Ma in genere lo fanno in banca, non lì, di memorizzare i numeri di serie delle banconote. Quindi sono politica. E allora, che va bene i cavatori, cazzo, ma viene un po' attrezzati via. Ed era bravo anche chi guidava lo scavatore, era qualcuno che lo guida, perché era bravo a guidare, era accentrato proprio lungo di dove andare. E allora, erano tutti professionisti quelli, quelli è come le rapine che facevano le poste. La matrice cosa era mondial po', non è che mi arriva una, no. E vedrai che non li trovano, quelli delle poste trovati li hanno, mai. E gli altri che hanno fatto alla mondial po', trovati li hanno, un cazzo hanno acciappato. Ma oggi hanno rapinato un portavaluti. Adesso non so se è possibile fare una cosa del genere. Se le guardie giurate sono scese per andare al bar a bersi un caffè, quando sono rientrati gli avevano aspettato i banditi, li hanno fatti salire sul furgone, uno di loro è salito con loro e li ha fatti andare in un posto appartato, li hanno legati e malvagliati, gli hanno rubato tutti i soldi che c'erano dentro. Cosa ne di Manuetti? No, non poteva neanche scendere da furgone, prima cosa. E seconda cosa, si dovevano andare proprio al posto dove dovevano scaricare i soldi, se dovevano fare le riaperture dei negozi. E invece si sono fermati per andare al bar, e loro li hanno aspettati fuori, come hanno aperto il furgone, sono andati, vai in quella zona lì, li hanno perseguitati di nuovo con la macchina, e praticamente li hanno rubato tutti i giugli, allora li hanno legati, imbavagliati. E male hanno fatto, se hanno perso anche il posto loro di lavoro. Se non deve risarcire il pesce di che hanno rubato. No, quello no, però pagano il posto, al 100% pagano il posto, perché loro non potevano lasciare il blindato scoperto, perché loro non devono neanche entrarci al bar. Loro quando caricano i soldi devono andare direttamente dove devono andare. Io lo so perché ritiravo gli incassi dei negozi, lo so. E quando avevo i soldi, io prendevo, partivo e andavo subito in azienda a mettere la cassaforte. È normale. E un giorno, sai cosa mi è successo? Sono andato a ritirare l'ultimo negozio, avevo fatto già tutti gli altri, 44 negozi. Praticamente io guardavo sempre dallo specchietto prima di scendere, no? Perché a buffare usavo la busta della spesa e tanto ora non ce l'avevo più, quindi gli altri faranno diversamente, io usavo la busta della spesa per camuffare. Ci avevo tutti gli incassi degli altri negozi e questo qua ci ha messo a grida. Fara da rubo il gole, mi serve di rame a Pucci. C'era la porta del negozio chiusa perché stavano la banda in terra dentro, stavo andando solo a mettere i soldi io. Cazzo, prendo, busso la porta, scendo dal furgone, busso la porta, non mi aprono, questo qui mi viene incontro. Stavano che volevano far provocare una rissa, per cui gli altri erano in via mare, qualche controllavano e magari volevano venire a prendermi i soldi. Ho fatto il tempo per entrare dentro il negozio. Quindi mi sono messo con le spalle davanti alla porta, quando stavo venendo, boom, la banda di Bini e ci si dovrà cadere. E quella volta me l'ho vista brutta. E quando ci sono soldi in ballo è brutto sempre. E invece al mio principale ci aveva tutti i soldi per cambiare i soldi, dare gli spiccioli dei negozi, ma prendevano sempre 3-4 mila euro, perché le davano poi in ogni negozio, no? C'aveva la valigetta, qualcosa, questo qua ha lasciato la macchina per il principale. Si è seduto in macchina e si è trovato questo qua a fianco, gli ha puntato la pistola, la migliaia di e si è fuggito. Allora questo qui l'ha perseguitato, anzi l'ha perseguitato con pericolo di spararsi, c'era la pistola, ma l'ha perseguito con la macchina. E è tornato, io l'ho visto, è tornato tutto rosso in faccia, incazzato nero, e ha detto che ne avevano rubato i soldi, questo e quell'altro, non ce l'aveva fatta a prendere, non manca a prendere il numero di targa, ce l'ha fatta perché c'era un bel veloce. C'aveva un Alfa Romeo, una Giulia, per fare che c'aveva. E si era abbigliati. E gli altri su ce l'hanno sgridato, hanno detto tu non dovevi andare a preso, perché se quello impazziva prendeva la pistola e ti sparava la macchina. Tu cosa c'avevi? Avi, c'avevi, no? E allora dovevi stare l'altro tutto a chiamare i carabinieri e basta. Sì, infatti, è stato imprudente. Sì, ma da noi adesso successi di rapire di cose, lui. Un'altra volta a Blattamona questo mio collega si è dovuto andare, gli hanno buttato la pistola in testa e ho avuto uno shock, è andato dal psicologo, gli ha detto deve mollare quel lavoro, perché ogni volta che entrava a lavorare si tremava. Figurati, sì, si vede. E alle commesse gli ha detto chiudetevi in bagno, ma poi le commesse sono tutte chiuse in mano. E lui si è preso i soldi e se ne è scappato a piedi verso la Pineta. Sì, sì. E i carabinieri sono venuti subito ma non l'hanno trovato. Chissà, sarà stato della zona di giusto sicuramente. E allora che sono tutte cose studiate, cazzo. Questo era solo, sprovveduto, solo, senza macchina, a piedi, capito? A piedi è scappato. e magari va via la macchina a guarda un caffè lungo. Cosa sicura. E invece quello che l'ha fatta nella Torreducci uscendo da per andare a Sassari lì, all'Oleandro, ha entrato dal cortile, ha puntato la pistola alla salumiera, perché la prima che trovi come entri dalla porta del cortile la salumiera, sai quante volte gli ho fatto lo scherzo, tipo faccio finta di puntare la pistola. Ah già, non mi fa spaventare, io te lo sto facendo per farti capire che da un momento all'altro può entrare qualcuno, mi sia successo. Ha buttato la pistola, l'ha portata alla cassa, c'aveva la pistola da una parte e il coltello dall'altra. Alla cassa l'ha buttato il coltello e gli ha detto apri la cassa. Apri la cassa, voce alta. Questa si è cagata sotto e non trovava l'operatore per aprire la cassa e questa si incazzava ancora di più. Via che si è impappinata dalla paura. E allora, e quello ha lasciato la macchina in moto. C'era una cliente, ha preso il numero di targa perché l'ha visto che era mascherato, capito? Gli ha preso il numero di targa subito. La macchina era rubata e io avevo fatto 3-4 rapide nella zona di Sassari. Tutti andate bene, a segno. E se lui ci mare andata avanti? No, no, li ha presi subito, già li ha presi. Ha preso anche... Li ha presi perché poi quando ha alzato le voci, l'altra commessa che c'era, l'ha portata lì la cassa. E poi si stava avvantando e non l'ho aperta per non dare i soldi. E il principale ha detto, guarda che qua noi non ne vogliamo noi. Noi abbiamo un'assicurazione, se succede una cosa del genere ci paga l'assicurazione. Non vogliamo vittime né noi. Infatti, l'unica cosa è dargli di dinà, a Roma cosa via, e boh, l'unica è chissà. Non bisogna reagire perché ti possono sparare, cazzo ci sono macchine, c'è niente. E poi c'aveva il coltello da una parte e la pistola dall'altra. Figurati, cazzo. Non devono reagire, a quelli delle banche, la vita non reagì. Vi danno vietato proprio di reagire, perché cazzo rubandito non si sa mai come reagisce e cazzo e ti può sparare. E poi fatti strani, se c'è altra gente spara, non è impazzato, diventano scimmie, quando si vedono più si fanno così. Allora, gliel'hanno vietato proprio, non reagite perché se no ci potete rimettere la pelle, l'hanno detto. E noi non ne vogliamo noi, che già siamo assicurati. Ma infatti, ma non è. Ma il gommino ce l'ha andato, il gommino. Starà affettando. No, che a dieta va, che ce l'ha proprio a costume. Ah è vero cazzo che aveva la propria costume, sino la bui. E come si fa? Vero Cingomì? La propria costume devi fare. E deve avere serrato. E comunque chi la scappa bene facendo le rapine ha guadagnato i soldi facili e si fa una bella vita, cioè, però se c'è un po' di sentimento di cosa stai cagando tutti i dì, stai sempre con la paura che devo mandare tu per calabigliare. Io sì mia, che la giustizia è fina, buru. Comunque a quelli non li trovano più, assolutamente, erano troppo ben organizzati, chissà da quando la stavano studiando. Ma infatti, magari se ne sono andati fuori. Magari sono gente di fuori pure, mi, che non sono di qui e quindi hanno bigliato la nave, ci sono facciuto ora aereo, o magari va bene anche aereo privato, gatto, le colle, cani sacchi. No, sardo c'era perché io ho sentito aiò. Sì, vabbè, ma io penso che la maggior parte era di fuori. Mi sembra strano che i sardi arrivino a quello. Sì, hanno fatto scuola di ladri. E poi l'altro, quello che stava guidando la Ruspa, boh. I sardi che parlano così tanto lì, magari gente delle parti di muro, roba del genere, paesi vicini a noi. Ma guarda, se sono stati i sardi, sono stati bravissimi. Qualcuno c'era sardo, perché da come parlavano, me ne accorgevo che era sardo. perché l'ho ascoltato con le cuffie proprio il filmato. Quello che mi ha dato cosa, quello che si è messo a filmare, cazzo, col pericolo che gli arrivasse qualche problema. Cazzo, non si sa mai di rimbalzo, amico. Che ammazza, non c'è nulla da fare. Quelli gli hanno l'anima in acciaio, quei proiettili russi, mi. Cazzo, non sono come gli altri normali che vendono. Quelli lì hanno più forza di penetrazione, cazzo. Infatti, hai visto che hanno imparato a rubare la presa dei carabinieri? Se non sono molti, cazzo, è un miracolo. Ma i carabinieri dice che ce l'avevano blindato. Invece la polizia c'era un vetro più grosso, però non era blindato. Ma quella dei carabinieri dice la macchina che aveva il vetro blindato. Ehi, ma l'ha passato il vetro, l'ha bucato, ha bucato il vetro blindato del parabrezza. Cazzo, a chi ne ha riservi uno, chi l'ha già accusato oggi, mi pare, ha bucato il parabrezza della macchina, cazzo. Allora vedi, non sono sicuri neanche dentro la macchina quelli. I calabicoff sono delle armi potentissime, sono armi da guerra, non è che sono armi potentissime che riescono a bucare anche le lamiere, anche se li fai blindati, hanno una potenza allucinante. E infatti, perché dove c'erano le guardie, a Bucadu, a Luvedru ha resistito di più perché è più grosso quello della, dove erano le guardie, no? Però la lamiera, cazzo a vederla e ce l'ha scheggiata. Quello dove c'era la vedetta è stato, era in gabbia, si sparavano lì, cioè, è che i vetri erano più grossi, infatti. Se riuscivano a entrare che proiettili sarebbe rimasto come un coso, sarebbe morto. E infatti hanno sparato proprio per ammazzare, quelli di salvare la gente, non gliela sbatteva niente, sono andati lì per fare un gol per buco. A quelli gli fregava solo dei soldi, poi se crepava qualcuno, cavoli suoi, capito? Eh sì, perché hanno sparato a testa d'uomo, capito? Se no, se avrebbero potuto fare una cosa solo per spaventare, avrebbero sparato in alto. Infatti hanno sparato, cazzo, proprio con intenzione, si muri, muri, e se ti salvi, ti salvi. Noi faremo intanto. Hanno sparato con l'intenzione di uccidere, no? Erano gente spietata quella. Aspetta, mi stanno chiamando. Hola? Oh, signor. Chi là, chi là? Sono me. Io sono ricordo. Ehi. Oh signore, benedetto, c'è Kurz che si è sdraiato nel divano. Macumacu. E da futti duro. Invece c'è Tello che è cominciato in mura letterario, l'ho portato giù per vedere se doveva fare bisogno. E niente, ha fatto due pisciatini. E c'è prima. Vieni qua, vieni. Dai, John. Dove vuoi andare? Giù vuoi andare? Cazzo, mi stai guardando con la testa di becco, tu devi solo vederlo. Me lo posso immaginare con la rindu. Sì, ma per un caso. La vara a Kurt l'ha già portato là. Lei è andata da signora Elena. A me te lo posso immaginare. Dai, John. Bello? Sì. Ti sta chiamando, Natalino, sì, dimmi, sì. Curto non vu, a chiamarlo. Mi qua. Dai, John. Sentitola. No. Dai, John. A voi tu a chiamarla, Tyson, non voi. Allora no, ma gente l'ha mangiato mentre hai chiamato. Perché sono gelosi, sai, questo è geloso anche se vezzeggi il pappagallo, gli dice ciao bello, ciao piccolino, lui subito si incazza, oh, ci vuole subito a mangiare. Sì, anche sono gelosi. Vabbè, allora ho tirato due colpi importanti, invece ci sono gli ascoltori ma non gradisco entrare. Ti sto dicendo che c'è uno che mette la portante, e boh, l'ho invitato a entrare e non è voluto entrare, e così gli ho detto: allora, dato che fai così, io manco ti rispondo più quando metti la portata. Ma poi ti vanno più filmato come dice Bush, ti fa clappare qua. Ma poi c'era un'altra ora rido, già l'ho visto. Una scena, tutta la scena così, deve essere che okay, annoiata, non lo so, ho fatto giocare un po' tutto durante, ci ho buttato a giocare, poi torna, o c'è qualche cagna in calore, c'è sempre una pugnata. Guardati, magari giù ci sia qualche cagna così e lui sente l'odore, capito? E allora prima non lo faceva mai, invece adesso cazzo fa. Quando siete qualche cagna così in calore sta sempre bugnando. Chi è chi lo farà? La gente sbugnavamo con niente. E allora? E fa quello di buona la mimura. Sì, la mimura di buoni, lì, o più io. Ma va bene, quindi, adesso in pace. Una scienza, eh. Bello? Taiso, mi riconosci? Ma lo sai che abbiamo gli stessi anni io e Taiso? Lui c'ha 64 anni come me, perché ha 9 anni e l'altro 64 pericani. Non capito, ma lui è più piccolo, 9 anni non ce li ha ancora. Quanti anni ha questo? 8 anni c'ha, deve farne 9. Ma mi auguro che duri il più possibile. E infatti guarerebbe, perché durano poco, è quello il brutto. Sì, per l'affetto che danno meriterebbero di vivere una vita lunga, invece durano troppo poco. E infatti danno tanto, danno, è la verità. E chi non ce l'ha non lo capisce, c'è il cazzo. Tu la tele che pare che ti lascio e vado a portarlo giù, perché non si sa mai, sa che sia a disinteria, perché stai insistendo. Tu vai a portarlo, io mi piglio la pastiglia, perché mi pare che mi siano arrivati a dorare i gavaldoni. Mamma mia, per carità, avevo un poco di battino, ma... Adesso guarda che la freddo, vai a cucciarla, si uno dei propri bucciapa, cosa si insicchi vuol dire un motivo. Dai, ce l'ho fatto, dai, ci sentiamo, ciao Natalino, stammi bene. Ciao. Ciao Manuel, ti abbiamo chiamato, che cosa stai facendo? Affettando sta. Ah, affettando, mi sono sfogliato, vado a toccare la divisa, che sta affettando? Ah, è finito da poco di lavoro. Cos'è? Mezz'ora fa ma ci siamo sentiti. Ah, ho capito, chissà che accadre che vengo la divisa, ui. Ui, cascia a perdere dentro a quel gabbiotto, container, fino a quasi 35 gradi. Sì, non c'è aria condizionata. No, gliel'ho detto, se non mettono qualcosa lì per poter lavorare, perché io non posso stare dentro qua con 35-40 gradi lì dentro, pieno di mosche e di zanzare. Il giorno che ne ho fino alla testa mi butto giù in terra, chiamo l'ambulanza e poi vi arrangiate voi. Cioè uno non può stare a crepare, dopo uno suda, fa, che ti ci ha aiutato tutta la vita. Era un bagno, ieri che c'era più caldo, era un bagno di sudore, non mi grido, un bagno di sudore. E tu portati l'acqua appeso, te la butti in testa come facevo io, me la portavo in camera, me la portavo, quando sudavo mi facevo la doccia. No, io affogo a Eddy, cosa portati l'acqua, a Eddy affogo io. Ma vabbè che si calda pure. Per carità, cazzo, l'avvocato dei miei coglioni. Purtroppo ti mettono a lavorare in condizioni che non sono da cristiani, c'è poco da fare, ma con le bici si trovano così. Loro già ce l'hanno, quando entrano c'hanno già il gruppo acceso, condizionatore acceso, hai capito? Invece tu cazzo sono animali. Agitalo, io gli posso una bella buffonatura, gli si prende la canna lavorare tranquillamente. Non puoi stare cazzalcando in cucina, a parte che questi container prendono calore e la accumulano, come ti fai una batteria, va di liscio. Calore, calore, cazzo si pare che cazzo vada già una tenta di chili. Io non sono al capannone dove avevamo lui, dove c'era proprio il capannone, c'era la messa, c'era un caldo. Ma caldo, non si poteva respirare. Ma va bene così, vi ho detto, non fate qualcosa, io le ho detto in faccia, se no chiamo io l'ambulanza, mi sento male, poi l'ambulanza fa il tutto, a chiamare l'ospedale del lavoro. Ma infatti, proprio da quella c'è che porto giù a casa, che stava lamentando, dove se deve andare a fare i bisogni, non lo so, l'ho portato poco fa e non ha fatto nulla, adesso sta di nuovo lamentandosi, poi c'è qualche dolore, Vabbè, già ci sentiamo. Vai Natale. Ciao, ciao. Ciao Gianni. Manuele, ero al frigo a prendermi l'acqua perché dovevo prendere una pastiglia, capito? Ah, andava, già variato vai. No, oi, e chi sa ancora? E io già ho mangiato qualcosa, ho fatto un po' il carpaccio, due mozzarelle, l'ho mangiato, e mezzo litro di vino rosso. Ti raccampa, cazzo, ma io non lo so, chi c'è niente, cazzo, hanno pulito in capo, chi in chili non si può travagliare. Qua Natale, io gliel'ho detto una volta, gliel'ho detto due volte, gliel'ho detto tre volte, ma gliel'ho detto sia al capo della sicurezza, che viene ogni due volte alla settimana, gliel'ho detto a quella testa di Palanchino, però gli ho una parolaccia, al capo cantiere, gli ho detto ascolta, io lavoro, sì, perché lavoro, ho bisogno di lavorare, ma se mi sento male, io chiamo l'ambulanza, poi sono cazzi vostri, perché sono cazzi vostri. Infatti fatemi il rapporto, se vedi come ci si fanno travagliare, sono cazzi davvero. Ma questo è il rapporto lo fanno già direttamente dall'ambulanza, chiamano l'ispettorato del lavoro e mandano a controllare se è tutta norma. Come iniziano a guardare dove ero io, non c'è luce, non c'è corrente, non c'è niente, in mezzo alla mosca, in mezzo alla zizzera, già da lì si stringe il culo a loro. Sì, sono ben attenti a che l'ispettorato del lavoro bisogna i carabinieri, mi. E appunto, ci sono anche loro e mezzo. Loro non la vogliono sentire, gli ho detto una volta, gli ho detto due volte. Basta, non gli dico niente, il giorno che venivo pieni le palle piene, chiamo il 118, venite qua qui nella zona di dove sono io. Bene, mi trovano lì in terra, cosa c'ho? Sapete voi cosa c'ho? Mi manca il respiro, mi mancava. Si era miglia di voglia, succede una cosa del genere, soccazzi. Io glielo faccio e glielo faccio, a me non me l'ha fatto un cazzo, è vero vostro. Sono animali, sono questa gente, sono io li classifico animali. Guarda che tutta l'ora te la mettono la corrente dopo. Grande umano, ma ti pare cazzo che uno possa travagliare a 40 gradi in Chile, dai io, cazzo se ne facciano la vergogna, se ne facciano, cazzo. Ma dai, l'altro giorno, lascia perdere, oggi faceva caldo lo stesso, perché faceva caldo. Stamattina quando sono andato, era un quarto, sono arrivato, cazzo vedo una nebbia, non si vede la nulla, ma nebbia perché tutto un gancio che si accumulando. Verso le 9:30, 10:15, iniziava a uscire un sole, a cacchi sul gabbiotto. Dio. Si chi va a ripidare aria condizionata, sa di ridare in chili. Già lo so, e io non schifo, guarda, mi sono rotto le palle da azienda di merda, quella è proprio un'azienda di merda, ma ho visto un'azienda così. E infatti, invece di tutelarli, il personale, personale, perché uno se ne va da lì, cazzo, come vede che non può lavorare, cazzo, se ne va. Loro lo devono tutelare il personale, cazzo, ma stai scherzando, senza rudi, in inverno, cazzo, vi sarà un freddo, cazzo, dai piedi da iatta, e lì sì, cazzo, un forro. L'inverno sono stato tutta l'inverno in macchina, senta la scena, tutta l'inverno in macchina, e dicendo sempre le stesse cose, ma il gruppo, tira e molla, si sono fatti 6 mesi che portano questo gruppo, dopo 6 mesi hanno portato questo gruppo, ma perché? Perché ogni giorno dicevo le stesse cose. Tanto morire col gruppo, e la notte c'era il mio collega, doveva fare il servizio, cazzo, non ha pigliato un fuoco, un filtro di fare la benzina. E qua, per carità, e la buda chiavi, sono passati roba di 4-5 mesi che arrivavano un altro gruppo, hanno portato un altro gruppo e si chiudava, moriva molto, la buda si chiudava. Cazzo, ma che cazzo dovrebbe prendere questi gruppi, dai cinesi? Cazzo, uno non vale, l'altro non serve. Alla fine non lo usavamo perché cazzo non andava. Infatti fa, ma il gruppo non lo state usando. Se non anda, cosa cazzo? Casa stessa, 5 minuti si chiuda. Cazzo, non lo state usando il gruppo, poi cosa cazzo lo dà? Se non funziona. Ah, guarda, è un cinema veramente natale, c'è da prendere e spaccare la testa quella gente lì, il nervoso che c'avevo un giorno, cazzo, ne avevi spaccato in nato il gruppo, lui l'hanno sistemato il cavo della spina del gruppo dove collegavi al gabbiotto, beh, funzionava, non so cosa ha funzionato, un'ora ha funzionato, e gli ho detto, ma io non che vivo buttare la benzina mia, che non c'è benzina senza un gruppo, ma quella la dovete comprare voi, comente, ma tu sei sì in caso di gambo cosa? No, chi ci devono mandare da fanculo e boh, e con uno bello scherzo pure, come quello che gli vuoi fare tu, allora manco la zarrani e via. Cazzo, a chiesa non è ditta che può rimanere aperta così. Quella lì è una ditta di merda, cazzo, romeni, amaresi, cazzo, l'acqua napoletano, ma ve ne andate da far culo tutti i gatti. Cazzo, la prima squadra che c'era, che aveva non ve più, se l'hanno mandata, cazzo, una squadra di Ungheria, pensa tu. Quando venivano non comprendiano un cazzo, ha detto voi dovete, quando venite qua dovete capire l'italiano, non è che sono io che devo parlare in ungherese. Io ungherese non ho studiato, che studiare? Mai ti sono matti. Tu non ci crederai per capirmi, cazzo, ma ho dovuto caricare un traduttore nel telefono, pensa tu. Gesù, no, una barzelletta, ma dove sei? Aspetta un attimo, perché tu sei famoso, vai. Chi sei, Natale? Sì, che sono qua. La Marugani è andata alla Iana, era stata intesa qualcuno, ed è abbagente alla Iana. Ma se vai anche tu? Sì, magari accendi qualcuno, è di nuovo, che è il padrone. Io, per carità... Ma per carità, però cazzo, in questi giorni non stava entrando un'anima viva qua. E cosa vuoi che entra nei Natali? Ormai la frequenza è morta, che cazzo vuoi che entra? Cazzo, da buon entra anche l'uno, cazzo, ti mettono portante o frusciani. Ma se l'ho visto che punire la portante, boh. Cazzo, vedi tutti. Sì, e se la vuole la sera abbordante. Sì, la porta un tetto a te se si bunia. E la cucchiaia, che cazzo vuoi? Ma chiama chiamato una volta, no? Se voleva entrare a parlare, e Idu, un esempio importante, vabbè, la fai così, io manco ti rispondo più, e mai più l'ho risposto. La gente è fulminata la gente, ma non c'è più nessuno, non c'è più nessuno. Cazzo, vedeva un amico che mi pubblicava lì, un baracchino, e gli ho detto, che baracchino è? È bello, Emanuele, bello. Ho detto, ma non è foto. Cazzo, dico baracchino, ma via 40 anni, dico baracchino, tu volete fare in campo. Ti ricordi quei baracchini? Penso che l'hai conosciuto, ce l'avevo anche io, però questo qui c'ha 40 canali e c'ha quello che c'aveva, 23 canali che c'aveva il pomello centrale, che i numeri te li segnava nel pomello. Sì, ce n'è uno io, 23 canali così, di quelli vecchi. Quello è uguale a quello che stava dando, 40 canali. La gente, che sei che ha fatto la guerra con il cavallo? Vintage. Sì, che sei 80 euro? Ma ecco, quelli della mamma, a parte che non mi serve, no?